le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Deraglia un treno merci sulla Bologna-Firenze, nessun ferito ma la linea è interrotta, percorsi alternativi e forti ritardi, disagi fino a domani. Iran, il Consiglio dei Guardiani ammette alcune discrepanze nel conteggio dei voti alle presidenziali ma precisa, i risultati non cambiano, Teheran sta valutando l'espulsione di alcuni diplomatici europei. Attentato contro il presidente dell'Inguscezia, in gravi condizioni. Sarebbero vivi 6 dei 9 stranieri rapiti nello Yemen il 14 giugno, lo dicono fonti tribali. Ancora in netto calo fatturato e ordinativi dell'industria, mentre secondo Eurostat in Italia le tasse sul lavoro sono le più alte d'Europa. Seggi aperti fino alle 15 per referendum e ballottaggi, bassa l'affluenza, lontano il quorum. Lippi dopo la sconfitta dell'Italia con il Brasile per 3-0, non abbiamo dato una bella immagine, il momento più brutto da quando sono CT. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. In primo piano c'è l'incidente ferroviario avvenuto all'alba verso le 5.10 sulla linea Bologna-Firenze. Un treno merci è deragliato. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma sono pesanti i disagi alla circolazione. Ci colleghiamo innanzitutto con Bologna, dove si trova il nostro Emilio Buttaro. Allora Emilio. Sì, buongiorno dalla stazione di Bologna. Buongiorno Emilio, noi ci colleghiamo in contemporanea anche con Firenze perché lì c'è Ubaldo Cianciulli. Ubaldo, allora innanzitutto che cosa è successo? Buongiorno Alessandro e buongiorno Simone. Sì, c'è stato un deragliamento di due carri di un treno merci stamani alle 5.10 tra Vaiano e Prato che ha tagliato a metà l'Italia interrompendo alcuni collegamenti e rallentandone altri in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono stati feriti ma diversi problemi alla circolazione. Nel frattempo è stato liberato un binario e in parte la circolazione ferroviaria è ripresa alle 10.21 con il regionale 6.559 Bologna-Prato e a velocità molto bassa. Dovrebbe tornare tutto alla normalità domani sera. L'incidente si è verificato stamani sulla linea Bologna-Firenze. Nel deragliamento i carri hanno interessato entrambi i binari interrompendo il passaggio dei treni. Uno dei due carri trasportava una cisterna di acido cloridrico. Non ci sono stati sversamenti. I vigili del fuoco stanno travasando il contenuto in un'altra cisterna. Le Ferrovie dello Stato hanno aperto due inchieste per capire la dinamica dell'incidente. Ubaldo, quali sono i disagi alla circolazione nel complesso? Ma sono notevoli perché i ritardi dei convogli sono superiori alle 3 ore per i treni a media e lunga percorrenza nei collegamenti tra nord e a sud in entrambi i sensi di marcia. Sulla linea Eurostar, alta velocità e convogli sono diminuiti del 50%. La linea Roma-Venezia è deviata su Ancona, i treni non fermano a Firenze ma fermano a Bologna. Grazie al ripristino della circolazione su un binario, l'Eurostar a Roma-Milano e viceversa, confermati a Firenze e Bologna, ha ripreso la circolazione. Questa è una notizia positiva. L'Eurostar alta velocità fa uno stop a Roma-Milano e viceversa, percorrono sulla direttrice tirrenica gli itinerari Roma-Pisa-Genova oppure Roma-Firenze-Pisa-Genova. I collegamenti diretti tra Bologna e Firenze, tra Vernio e Prato, sono garantiti con autobus e le ferrovie comunicano che i viaggiatori che rinunceranno al viaggio per questi disagi avranno diritto al rimborso pieno del biglietto. Coloro invece che stanno utilizzando i treni, sopportando quindi i notevoli ritardi, avranno diritto a un bonus. Grazie allora Ubaldo Cianciulli. Andiamo ora invece, come dicevamo prima, alla stazione di Bologna. Emilio Buttaro, lì com'è la situazione dei ritardi? Insomma, che cosa dicono i tabelloni di partenze e arrivi? Sì, dunque ci sono ovviamente sensibili ritardi. Il ritardo più forte è un treno ad alta velocità proveniente da Napoli che arriverà qui alla stazione, almeno l'arrivo è previsto con 230 minuti di ritardo. Poi c'è anche un regionale proveniente da Firenze che porta 110 minuti di ritardo, sono treni che hanno dei percorsi alternativi, un Eurostar proveniente da Roma Termini con 90 minuti di ritardo. Diciamo Alessandra che la notizia ha colto di sorpresa i viaggiatori giunti alla stazione di Bologna già da stamattina alle prime ore, alcuni di loro sono stati dirottati sul treno Eurostar per Roma che poi ha lasciato Bologna con un certo ritardo su linea alternativa. Molti passeggeri, soprattutto pendolari, hanno cercato di raggiungere le varie località con autobus sostitutivi. Emilio, tu hai anche un ospite con te. Sì, ho un ospite con me, infatti sono insieme ad Alessandra Coppa dell'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. Dottoressa Coppa, le chiedo le ultimissime e soprattutto se mi conferma il ripristino, il ritorno alla normalità per la tarda serata di domani. Ma sicuramente il fatto di poter circolare di nuovo su uno dei due binari sta gradualmente riportando la situazione a una maggiore normalità. La circolazione fra nord e sud non è mai stata interrotta, ma sicuramente ha dovuto usufruire di percorsi alternativi che hanno allungato i tempi di percorrenza. Quanto al completo ritorno alla normalità, per il momento le previsioni sono ancora la tarda serata di domani. Ringrazio la dottoressa Coppa, restituisco dalla stazione di Bologna la linea allo studio. Grazie, grazie Emilio Buttaro per questi aggiornamenti. Siamo alla politica, iniziando dai dati su referendum e ballottaggio, Alessandra. Eh sì, rimarranno aperti, lo ricordiamo, fino alle 15 seggi, appunto, sia per i referendum che per i ballottaggi. L'affluenza alle urne è bassa, ci riferiamo a quella registrata ieri sera alle 22, in media il 17% per i referendum, con una percentuale leggermente maggiore per il terzo quesito, ossia quello che intende abolire la possibilità di candidarsi in più collegi. Per quanto riguarda invece le sfide alle comunali, l'affluenza è intorno al 45% e per le provinciali invece è al 32%. Alla chiusura dei seggi naturalmente inizierà lo spoglio e Radio 24 seguirà l'esito del voto con finestre informative in tutti i giornali radio a partire dalle 15 e poi con due speciali alle 18 e alle 21. Veniamo ora invece alle polemiche politiche sul cosiddetto Barigate. In collegamento dagli studi di Roma, Andrea Viali. Sì, Alessandra, oggi investono anche i mezzi di informazione, queste polemiche. Sandro Bondi, ministro e coordinatore del Popolo della Libertà, se la prende in particolare con Repubblica, il quotidiano che a partire dal caso Noemi sta dando grande spazio alle questioni che riguardano Berlusconi e anche quelle delle feste nelle sue residenze private, che appunto abbiamo visto sono molto vicine anche all'inchiesta di Bari. Per Bondi, Repubblica si muove come un super partito, descrive una realtà che non esiste per destabilizzare il governo e per questo, dice Bondi, rappresenta la più grande insidia per la democrazia italiana. E se la maggioranza se la prende con Repubblica, l'opposizione attacca invece i principali telegiornali, in particolare il TG1 e il suo nuovo direttore Augusto Minzolini. L'accusa è quella di aver relegato in secondo piano l'inchiesta di Bari, nascondendo accuratamente tutte le varie notizie sulle feste, appunto, nelle residenze del Presidente del Consiglio. E per questo oggi il Partito Democratico sollecita interventi da parte dei vertici della RAI, ma anche della Commissione di Vigilanza e della Corte dei Conti. A voi la linea. Grazie Andrea, facciamo adesso il punto sull'inchiesta, sulla parte giudiziaria, insomma, dalla Procura di Bari, in diretta al capoluogo pugliese, Giovanni Longo. Giovanni. Sì, buongiorno Simone, buongiorno Alessandra. Dovrebbero consegnare ai finanzieri in giornata altre audiocassette, foto e documenti, ma al momento la notizia non viene confermata dagli investigatori. Patrizia D'Addario infatti è irrintracciabile. Dopo che Barbara Montereale, 23 anni, ha confermato la circostanza sull'incontro a Palazzo Grazioli con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, l'attenzione del PM Giuseppe Scelsi si starebbe spostando su altri presunti episodi di istigazione alla prostituzione, sui quali la 42enne barese avrebbe qualcosa da raccontare. Preoccupazione è stata espressa dalla Procura circa i mancati controlli all'ingresso di Palazzo Grazioli. Giovani donne sarebbero appunto entrate senza neanche consegnare un documento. L'accesso è così vulnerabile, si chiedono. Intanto si apprende che le due principali inchieste sulla sanità pugliese, da cui è partito il filone sul presunto ingaggio di giovani donne a pagamento per uomini potenti, avrebbero più di un punto di contatto. In questo caso però le ipotesi di reato sono diverse: associazione finalizzata al falso, al millantato credito e addirittura forse alla corruzione. Difficile individuare i contorni della vicenda e fare breccia nel fitto riservo degli investigatori. Dalla Procura di Bari vi restituisco la linea. Grazie Giovanni Longo, noi invece andiamo nel Caucaso, precisamente nell'Ingushezia. Sì, è una repubblica autonoma della Federazione Russa al confine con la Cecenia. C'è stato un attentato questa mattina contro il presidente, l'uomo è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato dichiarato una sorta di stato di emergenza, precisamente si chiama regime di operazioni antiterrorismo, lo stesso status che solo due mesi fa era stato revocato in Cecenia. Ma sentiamo che cosa c'è dietro questo attentato. La guerra in Cecenia si riaffaccia nella repubblica vicina, l'Ingushezia. È qui e nelle altre repubbliche del Caucaso, come il Dagestan, che si sono rifugiati militanti cacciati dalle montagne di Grozny. Ed è qui che sono tornati a lanciare una serie di attacchi che negli ultimi mesi in Ingushezia sono saliti di livello, mirando sempre più in alto nella loro lotta contro le autorità. Questa mattina, in un attentato suicida, è stato colpito il presidente dell'Ingushezia, il colonnello Yunus Bek Evkurov, forse più famoso perché nel 1999 in Kosovo marciò con i suoi uomini sull'aeroporto di Pristina per prenderne il controllo prima della NATO. Yevkurov è presidente dell'Ingushezia da pochi mesi, è conosciuto per essere un comandante duro ma onesto. Ha cercato di aprire il dialogo con i ribelli, ma il suo vero nemico è la crisi economica, che nel Caucaso nega un lavoro al 50% delle persone e le spinge verso gli estremisti islamici. Yevkurov, operato subito dopo l'attacco, sembra fuori pericolo, ma intanto Mosca ha proclamato l'inizio di un'operazione antiterrorismo in Ingushezia. Esattamente le stesse parole con cui veniva descritta la guerra in Cecenia, che il Cremlino sperava di aver archiviato, dichiarandola conclusa 2 mesi fa. Antonella Scott, GR24, Sole 24 Ore, Mosca. Avete sentito poco fa il nostro Andrea Viali da Roma che ci riferiva a delle polemiche del Partito Democratico nei confronti del TG1. Ebbene, si apprende adesso dalle agenzie che il presidente della RAI Paolo Galimberti ha convocato oggi il direttore del TG1 Augusto Minzolini, appunto dopo queste polemiche, anche alla luce di un probabile dibattito sul tema che si svolgerà nella riunione del Consiglio di Amministrazione di giovedì. Galimberti si apprende sempre dalle agenzie, ha ricordato a Minzolini che completezza e trasparenza dell'informazione sono un dovere imprescindibile del servizio pubblico radio-televisivo. Veniamo ora alla pessima figura fatta dalla nostra nazionale nella partita. Che comunque, a proposito di televisione, ha fatto 10 milioni di ascoltatori. Beh, insomma, la nazionale è sempre la nazionale, però insomma diciamo che la partita non ci è piaciuta moltissimo, al di là poi del risultato che è stato insomma quello che è stato. Ricordiamo gli azzurri sconfitti per 3-0 dal Brasile, così l'Italia è fuori dalla Confederations Cup. Questa mattina poi ci sono state le dichiarazioni di Lippi. Sì, delle dichiarazioni di Lippi, un mea culpa, non abbiamo dato una bella immagine, forse il momento più brutto almeno da quando io sono CT, prendiamo degli schiaffi e torniamo a casa, ha detto, ma la ricostruzione della nazionale è in corso. Io non avevo mai detto che era completata e che questi sono i giocatori e con questi andiamo ai mondiali. Dario Ceccarelli, le scuse di Lippi bastano? Ma non credo proprio, mi sembra che la notte gli abbia portato lievemente consiglio, nel senso che ieri sera ha detto delle cose improponibili, probabilmente era per il fatto che era sotto shock, perché la batosta di 3-0 in quel modo così bruciante, così umiliante, probabilmente lo ha lasciato senza parole, anche comprensibilmente ha dovuto così dare un ultimo omaggio ai suoi moschettieri, chiamiamoli così. Certo che il futuro è pessimo in questo momento e non è azzurro ma è nero, e quindi bisogna rapidamente fare qualcosa per il futuro. Sembra dire Lippi non ci sono giovani, insomma mi affido ai vecchietti e di giovani è difficile trovarne. Ecco, anche questo ricorda molto il Berzotto dell'82, per quando vinse, come sappiamo, quel bellissimo mondiale, poi arrivò nel mondiale successivo in Messico e fummo travolti dalla Francia di Platini. Si ripetono dei cicli, no? E i CT tendono ad affezionarsi molto ai giocatori che gli hanno portato un titolo mondiale e quindi tendono fino all'infinito a reiterare la loro presenza, ma è sbagliato, perché come in tutti i cicli bisogna dare dei tagli e dare in modo, soprattutto in tornei come la Confederation Cup, ai giovani di emergere, fare magari brutte figure, però dargli la possibilità di crescere. Qui non c'è stata. Grazie Dario Ceccarelli per questo commento, per questa analisi sulla partita. Le 13:17 minuti e 35 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato del deragliamento di un treno merci sulla Bologna-Firenze, non c'è stato alcun ferito ma la linea è interrotta, ci sono percorsi alternativi e forti ritardi, a quanto pare i disagi si protrarranno fino a domani. Abbiamo parlato di un attentato, l'attentato contro il presidente dell'Ingushezia che è in gravi condizioni, abbiamo parlato di politica italiana con la scarsa affluenza alle urne per referendum e ballottaggio, anche con la vicenda del cosiddetto Barrigate, e poi abbiamo parlato anche della pessima figura della nostra nazionale contro il Brasile ieri nella Confederation Cup. Adesso torniamo all'estero e andiamo in Iran. Sì, in Iran sono stati due giorni, gli ultimi, di durissima repressione. Le agenzie di questa mattina parlano di 457 persone arrestate. Ci sono state anche purtroppo delle vittime, forse 10, forse di più. Ricordiamo che ormai in Iran non ci sono più giornalisti stranieri, quindi è difficile anche ricevere delle notizie certe su quanto sta accadendo. Sì, quello che si riesce a sapere naturalmente si apprende da quel poco che filtra su internet, sui social network oppure su siti di condivisione video come YouTube. Nel frattempo continuano ad arrivare notizie da una parte sui possibili brogli, dall'altra su una possibile soluzione della vicenda, soluzione che potrebbe comprendere l'estromissione dell'Ayatollah Khamenei. Ali Fateh Ali, buongiorno. Buongiorno, ci chiedi un po' di che cosa, ecco, di che cosa si tratta? La novità politica è, secondo voci sempre più insistenti provenienti da Teheran e citate da autorevoli media arabi, e vede l'ex presidente Rafsanjani starebbe lavorando per destituire Ali Khamenei dalla sua carica di guida suprema della rivoluzione. Forte della sua prerogativa di capo del Consiglio degli Esperti, ricordiamo, la Costituzione attribuisce a questo potente organo di rimuovere e sostituire la massima autorità morale della rivoluzione, Rafsanjani da 5 giorni sarebbe a Qum, la città santa paragonata ad una sorta di Vaticano degli sciiti, starebbe tessendo le file per eleggere una guida collegiale. Essersi schierato con Ahmadinejad, Khamenei insomma sarebbe venuto a meno della sua funzione di padre spirituale di tutti gli iraniani. Questa è l'accusa del clero. Alessandra? Sì, Adib, allora intanto continuano ad arrivare altre notizie, tra cui quella che l'Iran non esclude di espellere ambasciatori di paesi europei per presunte interferenze per i loro commenti sulle proteste seguite alle elezioni presidenziali. Questo è quello che ha fatto capire il portavoce del Ministero degli Esteri, Hassan Kashkavi, rispondendo durante una conferenza stampa ad una domanda sulla possibilità di provvedimenti di questo genere. Ma nel frattempo, Adib, arrivano anche informazioni sui possibili presunti brogli dei quali si è parlato nei giorni scorsi. Insomma, da quel che si è capito, ci sono 3 milioni di voti in più rispetto agli aventi diritto. Guarda, purtroppo questa è stata subito smentita. Cioè, il portavoce al quale sono state attribuite questa dichiarazione dei guardiani della Costituzione ha chiamato i giornalisti pochissimo fa, l'ha trasmessa la TV iraniana anche, e ha fatto una recisa smentita all'interpretazione data alle sue parole sui 3 milioni di voti. Ha semplicemente ribadito che ci sono stati sì delle irregolarità e discrepanze, ma che mai avrebbero intaccato la grande differenza tra i candidati o addirittura messo in dubbio la vittoria di Ahmadinejad. Adib, ci sono dei siti per esempio che oggi hanno titolato Teheran ammette brogli, quindi non è così la dichiarazione, molto ma molto più edulcorata, insomma. No, purtroppo bisognerebbe assolutamente dare retta, l'ho sentito con le mie orecchie, e dire in modo molto chiaro e netto: l'interpretazione data alle mie parole sono prive da ogni fondamento. E quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con un regime che insiste nel voler ratificare la vittoria contestatissima di Ahmadinejad e prospettare quindi scontri. Poco fa i guardiani della rivoluzione hanno ammonito chiaramente alla TV sempre per le prossime elezioni, per le prossime manifestazioni non autorizzate noi interverremo. Bisogna ricordarsi, fino a questo momento i Pasdaran, che sono i veri proteriani della rivoluzione islamica, non sono scesi in piazza a reprimere la rivolta. Finora lo hanno fatto i presidi e la polizia, che sono diversi, diciamo così. Adib, un'ultima domanda. Tu conosci bene il paese, naturalmente. Vedi sbocchi a breve? Sinceramente no, a breve no. Assolutamente è stato dato il via ad un grande movimento di protesta che probabilmente è sfuggito di mano al suo leader, che è Mousavi, però è un Mousavi che, ricordiamoci, è lui che ha avviato il programma nucleare, lui è anima e corpo con l'ideologia della rivoluzione islamica, però non è d'accordo con la leadership attuale, e in questo è spalleggiato da un personaggio come Rafsanjani, che è la terza potenza. Ricordiamoci, Rafsanjani è stato lui a portare come guida suprema Khamenei. Quindi ci sarà lotta, c'è una spaccatura all'interno della rivoluzione islamica, e se vogliono devono cercare di rimediare, di recuperare prima che questo grande movimento di contestazione giovanile sfuga di mano a Mousavi. Stiamo a vedere, io non prospetto tempi rapidi. Grazie allora ad Adib Fateh Ali collegato con noi. Noi continuiamo a parlare di Iran e di quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Eh sì, perché Adib Fateh Ali faceva riferimento alla protesta giovanile, una storia sta facendo il giro del mondo e sta diventando il simbolo della protesta contro il regime. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Distesa a terra, insanguinata, soccorsa da amici disperati. Neda, ragazza iraniana, è lei che il popolo di internet della Rivoluzione Verde ha scelto come simbolo. È tra le vittime degli scontri a Teheran. Su YouTube il video della sua morte è impressionante, ma in alcuni paesi risulta oscurato. Sulla rete, dai blog ai social network a YouTube, è una valanga di messaggi a lei dedicati. Neda è morta con gli occhi aperti, facendo vergognare noi che viviamo con gli occhi chiusi. Ricordiamo Neda, uccisa in Iran. Neda, non sarai morta invano, sono solo alcuni. Uno non ha parole, ma la musica che state sentendo in sottofondo. Messaggi che hanno invaso la rete, inviati dai sostenitori del candidato dell'opposizione Mousavi, alla ricerca di un simbolo della rivoluzione d'estate per sé e per il mondo. È toccato a questa ragazza che sfilava come tante nelle strade di Teheran in questi giorni e via Mirabad, dove ha perso la vita, stando a un post trasmesso sul sito di opposizione, è già stata ribattezzata dai contestatori via Neda. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. E si apprende, è notizia anche questa di stamattina, che sono stati vietati i funerali pubblici per Neda. Nel frattempo però Mehdi Karroubi, il candidato alla presidenza dell'Iran che insieme a Mousavi contesta la vittoria di Ahmadinejad, ha convocato una commemorazione pubblica per lei, una commemorazione pubblica che è prevista per le 4 del pomeriggio di oggi, ora locale, quindi più o meno in questi minuti. Vedremo che cosa succederà. Andiamo ora in Francia, oggi un appuntamento assolutamente irrituale per il paese. Sentiamo di che cosa si tratta. L'iper presidente è di ritorno. Confortato dal buon risultato del suo partito, l'UMP, alle europee e da una popolarità finalmente in crescita, Nicolas Sarkozy si rivolgerà questo pomeriggio alle Camere riunite in sessione plenaria al Castello di Versailles. È la prima volta che ciò accade nella Quinta Repubblica. Solo una modifica costituzionale dell'anno scorso, voluta dallo stesso Sarkozy, permetterà a un capo di Stato francese di esprimersi direttamente davanti a deputati e senatori. È una decisione controversa che fornisce al Presidente della Repubblica un mezzo nuovo per comunicare le linee strategiche della sua politica. Di cosa parlerà? Dovrebbe definire le riforme della seconda parte del quinquennato, con un'enfasi particolare sulle misure con cui la Francia dovrebbe uscire dalla crisi. E, secondo le indiscrezioni, potrebbe annunciare l'idea di un grande prestito pubblico per finanziare un deficit che, anche in Francia, sta raggiungendo livelli esplosivi. Il 7,5% del PIL stimato per quest'anno e il prossimo, se non peggio. Insomma, un messaggio forte in modo che la crisi di oggi non pesi sulle generazioni future. Attilio Geroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Chiudiamo questa parte ancora con lo sport, con una nuova puntata della guerra dei costumi che sta caratterizzando ormai da tempo il mondo del nuoto. Retromarcia con tanto di via libera, si spera a questo punto definitivo. La Federazione Internazionale Nuoto prova a metter fine al caos Superbody. Un mese fa la stessa FINA aveva bocciato alcuni tra i modelli di ultima generazione, come il Jaked 01 e l'Arena X-Glide. Creano bolle d'aria che aiutano il galleggiamento, aveva sentenziato la commissione FINA. Immediata la reazione delle aziende produttrici. La Jaked, sponsor tecnico degli azzurri, ha svolto test autonomi per confutare le tesi della FINA. L'Arena ha modificato l'X-Glide. Senza contare che entrambi i costumi erano già stati indossati in occasione di diversi primati mondiali, uno su tutti quello di Bernard col body arena sui 100 stile libero e che il Jaked 01 era già stato utilizzato a Pechino 2008. Insomma, una bocciatura definitiva avrebbe spostato la partita dalle piscine alle aule dei tribunali. E allora, adesso marcia indietro della FINA e via libera tutti i body interamente in poliuretano. Decisione pilatesca ma logica, coi mondiali di Roma al via il 17 luglio ormai alle porte. Poi dal 1 gennaio 2010 a regolamentare i superbody ci penseranno le norme della cosiddetta Carta di Dubai. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. È deragliato un treno merci sulla Bologna-Firenze. Non c'è stato nessun ferito, ma la linea è interrotta. Ci sono ritardi anche di 4 ore, disagi fino a domani sera. Iran, il Consiglio dei Guardiani ha ammesso alcune discrepanze nel conteggio dei voti alle presidenziali, ma ha anche precisato i risultati comunque non cambiano. Tasse sul lavoro in Italia ci sono le più alte d'Europa. Intanto arrivano dati negativi per fatturato e ordinativi dell'industria, ancora cali a due cifre in aprile rispetto all'anno scorso. Sarebbero vivi 6 dei 9 stranieri che erano stati rapiti nello Yemen il 14 giugno scorso. Lo hanno dichiarato oggi alcune fonti tribali. Seggi aperti fino alle 15 per referendum e ballottaggi, e bassa l'affluenza e lontano il quorum. Lippi, dopo la sconfitta dell'Italia con il Brasile per 3-0, non abbiamo dato una bella immagine, ha detto, è il momento più brutto da quando sono io il commissario tecnico. E siamo all'economia con notizie che ci parlano, come sentivate dai titoli, dell'Italia come il paese dell'Unione Europea dove è più alto il carico fiscale sul lavoro. Sono dati che ha reso noto oggi Eurostat in base al confronto effettuato sul 2007. Dunque, in Italia, secondo Eurostat, le tasse e i contributi sociali rappresentano il 44% del costo del lavoro, contro il 42,3% della Svezia e lo stesso 42,3% sempre del Belgio. Per i redditi delle imprese italiane segnala ancora Eurostat, la riduzione dell'imposizione fiscale è arrivata invece a sfiorare i 10 punti percentuali. Si è passati dal 41,3% del 2000 al 31,4% di quest'anno. Nonostante tutto questo, le difficoltà del sistema italiano, soprattutto in questa fase, sono molte, sono ancora pesanti, per esempio i dati su fatturato e ordinativi delle imprese ad aprile, che di nuovo fanno registrare un calo a due cifre, 22% in meno per il giro d'affari, meno 32% per gli ordini. Molto negativo è anche il dato trimestrale, le variazioni congiunturali registrate dall'Istat fra febbraio e aprile segnano un meno 7,4% per il fatturato e meno 8,3% per gli ordini rispetto al trimestre precedente. Tutto questo nonostante i dati sulla produzione diffusi due settimane fa avessero indicato timidi segnali di ripresa, un più 1,1% in aprile rispetto al mese precedente. Intanto c'è chi misura l'impatto della crisi sulle varie zone del paese. Questo è il centro studi Sintesi, in un'analisi pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, analisi che fa emergere una sofferenza maggiore in Toscana, Marche e in alcune regioni del nord. Buongiorno Valeria, benvenuti, che ha curato la ricerca insieme alla sua collega Chiara Tronchin. Sì, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto partiamo dal fronte del metodo. Che cosa avete analizzato? Sì, lo studio che abbiamo realizzato ha appunto calcolato l'impatto che la crisi ha esercitato sulle regioni, non solo dal punto di vista economico, ma anche prendendo spunto dagli aspetti più sociali e del lavoro. Per determinare l'effettiva incidenza della crisi non ci siamo limitati a prendere solo l'ultima variazione del dato disponibile, ma abbiamo lavorato su una serie storica più ampia, a 5 anni. Quindi ha quindi permesso di verificare che la stessa variazione, che poteva essere evidenziata in regioni diverse, però potevano avere un peso differente che dipendeva dall'andamento storico delle singole aree territoriali. Benvenuti, cosa c'è dentro questi dati? Cioè, oltre al PIL, che è il dato più banale che ci viene in mente, che cosa c'è? Che cosa avete misurato? Sì, proprio perché la crisi, che inizialmente era partita dai mercati finanziari e poi è arrivata all'economia reale, ha interessato anche poi non solo il contesto produttivo e imprenditoriale, ma poi anche quello lavorativo e sociale. Quindi è per questo motivo che gli indicatori utilizzati da questo studio vanno appunto dal PIL, come diceva lei, alle esportazioni, alle ore di cassa integrazione autorizzate, alla spesa per consumi delle famiglie, ai redditi disponibili delle famiglie stesse, ossia quanti soldi effettivamente hanno in tasca le famiglie. E che cosa è emerso a questo punto analizzando, come diceva lei, PIL, cassa integrazione, consumi? Allora, dallo studio emerge complessivamente come siano due le regioni del centro ad essere state maggiormente colpite dalla crisi, si tratta di Toscana e Marche, anche se comunque non bisogna dimenticare alcune aree del nord, proprio quelle dalla maggiore presenza industriale e imprenditoriale, specie se si tratta di piccola o media dimensione. La forte quindi vocazione di queste aree all'apertura ai mercati esteri è stata in qualche modo frenata dalle esportazioni, specie se si tratta dell'Emilia e del Trentino Alto Adige, che hanno comunque contribuito all'arretramento di queste regioni nella classifica. Per quanto riguarda invece la Toscana e le Marche, che appunto sono le due regioni che da noi risultano avere avuto maggior impatto della crisi, i problemi sono riconducibili ad un maggior schiacciamento nei livelli di consumi delle famiglie e soprattutto di redditi disponibili delle famiglie. Per queste regioni poi inoltre sembra essere rilevante anche la difficoltà finanziaria legata alla restituzione dei crediti. Quindi ci faccia capire, è la stessa struttura produttiva di determinate regioni che comporta il fatto che siano più esposte alla buriana, alla bufera? Beh, certamente la struttura imprenditoriale del tessuto economico ha una forte incidenza su quello che è l'impatto della crisi. È vero che dallo studio emerge ad esempio come aree del mezzogiorno sono quelle che abbiano subito il minor impatto della crisi, anche a causa di una loro maggiore vocazione nei servizi, specie se legati al settore della pubblica amministrazione che al momento non ha subito alcuna contrazione di sorta. Quindi la struttura stessa del sistema economico imprenditoriale di un territorio ha quindi una maggiore o minore influenza su quello che è l'impatto della crisi. Grazie Valeria Benvenuti, curatrice della ricerca per il Centro Studi Sintesi. Buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. E per reagire anche a questi problemi, insomma ai problemi delle imprese italiane, il governo sta approntando un decreto per aiutarle. Cosa conterrebbe? Lo chiediamo a Stefano Totoro, che tra l'altro poco fa ha raccolto anche l'opinione degli industriali. Stefano. Sì, buongiorno a voi ai nostri ascoltatori, io mi trovo ad un convegno organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro appunto sulla crisi economica. Quanto al decreto, l'andamento positivo sulle entrate fiscali potrebbe incoraggiare il governo ad attuare interventi in materia economica, probabilmente già venerdì in Consiglio dei Ministri si parlerà sostanzialmente di due interventi, la detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese e il bonus per le imprese che evitano i licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione. Quanto allo scudo fiscale destinato al rimpatrio dei capitali detenuti all'estero, il governo intenderebbe aspettare la riunione del G8 all'Aquila in cui si tratterà anche la tematica dei paradisi fiscali. In ogni caso dovrebbe essere oggetto anche del prossimo Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda lo scudo fiscale si parla comunque di aliquote di prelievo differenziate con una forchetta fra il 4 e l'8%. Dicevamo qui ho raccolto l'opinione degli industriali in base a questo decreto di cui si parlerà venerdì in Consiglio dei Ministri. Sono misure che qui ha commentato Alberto Bombasei, vicepresidente di Confindustria. Il bonus, ha detto Bombasei, è una cosa buona ma che non serve tantissimo, perché se un'azienda per un periodo non ha necessità di produrre non è l'incentivo che fa bloccare i licenziamenti. Le misure, ha proseguito poi Bombasei, ci sono già e sono quelle prese dal ministro del welfare Sacconi. In questo momento sta intervenendo qui al convegno il ministro dell'economia Giulio Tremonti, ve ne riferiremo ovviamente nelle prossime edizioni del Giornale Radio. A voi. Grazie Stefano Totoro, noi continuiamo a parlare di imprese del nord-est, perché dal nord-est appunto arriva una storia particolare. Ha avuto successo l'originale iniziativa sindacale organizzata a Schio nel Vicentino, dove gli operai di un'azienda tessile avevano minacciato di chiudere i conti correnti in due banche se queste non avessero finanziato la loro azienda. Il caso, la Smith Textile di Schio, azienda meccanica che produce telai tessili con 180 dipendenti, nonostante abbia commesse per 3 milioni di euro, ben 100 macchinari pronti ad essere consegnati in Cina ed India, commesse garantite dalle banche dei due paesi, non riesce ad ottenere finanziamento dagli istituti di credito del nostro paese ed è in crisi per il pagamento degli stipendi dei fornitori. I dipendenti si dichiarano pronti ad una protesta collettiva e sono determinati a chiudere il conto nelle due principali banche dell'azienda, Unicredit e Banca Popolare di Verona. Detto fatto, oggi arriva la comunicazione della disponibilità dei due istituti di erogare finanziamenti a breve e quindi di permettere all'azienda di continuare la sua normale attività. Sono molti i casi di aziende solide che non riescono ad avere dalle banche liquidità a breve, dice Maurizio Doppio della Sim CISL di Schio. Situazione paradossale, quale le aziende tecnicamente hanno le caratteristiche per stare nel mercato, ma non lo possono fare. I finanziamenti sono stati tagliati per tutti, per chi sta bene e per chi sta male. Per questo l'iniziativa sindacale, che vede sulla stessa linea aziende e operai, avrà ancora delle repliche proprio nel Vicentino. Paolo Sinabia, GR24, Il Sole 24 Ore, Vicenza. Abbiamo già in linea Giulia Crivelli. Giulia. Buongiorno. Buongiorno. prima però di parlare con te una notizia dell'ultima ora appena arrivata che riguarda il calcio, era una notizia attesa e riguarda la squalifica per Mario Balotelli che sta giocando gli europei under 21, è una squalifica di un giorno, era stato espulso venerdì scorso a Helsingborg per un fallo di reazione nell'ultima partita dell'europeo under 21 contro la Svezia. Giulia, con te invece parliamo di rana, ne parlavamo prima in base alle dichiarazioni che sono state fatte oggi sui presunti brogli, tu invece dai giornali internazionali che cosa hai scelto? C'è un'interessante analisi sul Wall Street Journal, un po' triste se vogliamo, nel senso che il titolo è la capacità di spiare il proprio popolo delle gerarchie iraniane è anche aiutata dalle tecnologie occidentali. Sostanzialmente tutto il network di internet che quindi permette di controllare tutto il traffico, i siti ma anche i social networking come Twitter o Facebook o MySpace è fornito da aziende occidentali, per esempio cita il Wall Street Journal la Siemens che ha fatto una joint venture per fornire questi network all'Iran con la Nokia e secondo l'articolo del Wall Street Journal che cita fonti interne senza fare nomi e cognomi però persone che loro considerano fonti affidabili, questi stessi chi ha venduto i network in passato ma anche adesso queste tecnologie può anche spiegare come controllare il traffico e quindi eventualmente o oscurare alcuni siti che proprio non piacciono, oscurare del tutto alcuni tipi di traffico, per esempio appunto tutto quello che serve per far funzionare il protocollo di Twitter, il software di Twitter, che è quel famoso nano blogging fatto con messaggi di 140 caratteri, oppure, cosa ancora forse più inquietante, controllare proprio che cosa viene scambiato, quali tipi di messaggi vengono scambiati, quindi un gigantesco grande fratello che naturalmente diventa pericolosissimo per qualsiasi tipo di dissidente, visto che sappiamo come vengono trattati i dissidenti in Iran. Allora Giulia, alleggeriamo un attimo, parliamo di moda canina da una parte e moda maschile dall'altra. È sempre il Wall Street Journal che ha questo intelligente, secondo me, modo di appunto alternare notizie molto così ansiogene, se vogliamo, a notizie più leggere. C'è un articolo sui water dog portoghesi, cioè quella famosa razza che è stata scelta dalle figlie di Obama e da Obama come first dog, Bo, e il Wall Street Journal spiega che da quando Bo è diventato il first dog le richieste sono aumentate del 100% in America e del 122% in Gran Bretagna. Questo naturalmente ha messo in grandissima difficoltà gli allevatori che hanno reagito facendo dei veri e propri corsi per selezionare i possibili proprietari che quindi devono rispondere a 10.000 domande e fare addirittura dei periodi di prova perché per avere il cane della Casa Bianca insomma bisogna essere un padrone con il pedigree, non il cane deve averlo ma il padrone. E invece per la moda maschile? Sì, questa invece è Le Figaro che dedica l'intera pagina, insomma, essendo francesi in eterna lotta con noi italiani per i primati nella moda, è un buon risultato, l'intera prima pagina del supplemento EVU dedicato alle sfilate di moda maschile, quello che tutti notano, anche Susie Mankett sull'International Herald Tribune, è quanto ottimismo, quanta voglia di proporre dei vestiti che si vendano ma che siano anche come al solito espressione di una grande creatività si sia vista finora sulle passerelle milanesi. La foto scelta è quella del nostro forse stilista più famoso in assoluto che è naturalmente Giorgio Armani. 13:48 minuti, 27 secondi, andiamo come si diceva nello Yemen. Sì, da dove arrivano notizie contraddittorie. Alcuni giorni fa, lo ricordiamo, erano stati rapiti 9 stranieri ed era stata diffusa poi la notizia della loro uccisione, mentre oggi fonti tribali fanno sapere 6 di loro sono vivi. Allora facciamo il punto con Massimo Di Scienza. Eh sì, dunque 6 dei 9 occidentali rapiti il 14 giugno nel nord dello Yemen sarebbero vivi secondo una fonte tribale vicina alla guerriglia. I 6, 5 tedeschi, una coppia e 3 bambini ed un britannico sarebbero stati consegnati al capo militare dei ribelli sciiti e si troverebbero nella provincia di Sada, la stessa dove è avvenuto il sequestro. La notizia è stata confermata da un alto responsabile dei servizi di sicurezza dello Yemen, ma smentita pochi minuti fa da un portavoce dei ribelli Houthi, che già nei giorni scorsi avevano negato ogni coinvolgimento nella vicenda. La vicenda è iniziata il 14 giugno, quando 7 tedeschi, insieme ad un cittadino britannico ed una sudcoreana, non turisti ma tutti operatori nell'ospedale locale, erano stati sequestrati in una zona montuosa. Il giorno dopo le autorità yemenite avevano annunciato la morte delle due tedesche e della sudcoreana i cui corpi mutilati erano stati trovati nella regione di Nushur, e secondo i servizi segreti tedeschi anche gli altri ostaggi avevano subito la stessa sorte. Adesso invece aumenta la speranza di ritrovarli vivi. È tutto. Grazie Massimo Di Scienza per questi aggiornamenti. In Italia la nuova influenza è di fatto in una situazione di fase 5, lo dice il vice ministro della Salute Ferruccio Fazio, precisando che è vero che l'OMS ha dichiarato la fase 6 del livello di allerta pandemico, ma in Italia siamo ancora in una fase di contenimento e l'infezione è molto blanda. La preoccupazione maggiore è rivolta ai paesi in via di sviluppo. Ed in effetti nel sud-est asiatico stanno scattando severe misure di prevenzione, come ci racconta la nostra Raffaella Calandra di ritorno da Shanghai. 36,7, possiamo entrare. Compilati tutti i questionari sul volo di provenienza, le ultime città visitate e perfino il posto assegnato, ci viene direttamente misurata la temperatura corporea. Nel sud-est asiatico l'influenza A fa paura dopo i primi casi di contagio e per questo le misure di sicurezza sono altissime. Da Hong Kong a Singapore, a Kuala Lumpur, uno scanner verifica eventuali decimi di febbre su ogni passeggero sbarcato all'aeroporto. E un desk specifico raccoglie tutti i dati di chi passi in queste città. I distributori di amuchina per le mani e mascherine per naso e bocca sono frequentissimi, come gli addetti al servizio salute. Ad Hong Kong ancora altre scuole sono state chiuse dopo gli ultimi casi di contagio tra bimbi e le autorità si aspettano nuovi picchi del virus. Per questo anche negli alberghi, insieme al check-in, è obbligatoria la misurazione regolare della temperatura. Indossate le mascherine e lavate frequentemente le mani è il consiglio nei messaggi televisivi. Per chi avesse la febbre, scatta la quarantena. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Hong Kong. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere sentiamo dove ci porta oggi il nostro gastronauta. Oggi Mezzogiorno di Cuoco vi porta a Milano, in piazza Lega Lombarda, alla Nuova Arena. Questo locale, che tra l'altro è uno dei pochissimi aperti a Milano anche di domenica, offre una serie di piatti molto semplici e tradizionali, ma sempre di ottimo livello. I tortelli con la zucca, la zuppa di fagioli, i paccheri al pomodoro e basilico, oppure una buona cotoletta alla milanese con patate fritte. E ancora la tagliata di manzo, il galletto alla griglia, i moscardini in umido. Insomma, potrei continuare ancora a lungo e soprattutto un'ottima focaccia che arriva appena si è seduti. E una carta dei vini che così privilegia la Sardegna, perché patria appunto del patron Gianni. Comunque anche questa di ottimo livello. Lo ripeto, la Nuova Arena a Milano, piazza Lega Lombarda. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie di giornata. Una di poco fa innanzitutto arriva dall'Iran, i Pasdaran dicono pronti ad affrontare i dimostranti. Il Consiglio dei Guardiani ha messo alcune discrepanze nel conteggio dei voti alle presidenziali, ma precisa i risultati non cambiano. All'alba è deragliato un treno merci sulla Bologna-Firenze, fortunatamente nessun ferito, ma la linea è interrotta, ritardi anche di 4 ore, disagi fino a domani sera. Tasse sul lavoro in Italia sono le più alte d'Europa, dati negativi per fatturato e ordinativi dell'industria, intanto ancora cali a 2 cifre in aprile rispetto all'anno scorso. Sarebbero vivi 6 dei 9 stranieri rapiti nello Yemen il 14 giugno, lo dicono fonti tribali. Seggi aperti fino alle 15 per referendum e ballottaggi, bassa l'influenza. Lippi dopo la sconfitta dell'Italia con il Brasile ieri per 3-0, non abbiamo dato una bella immagine. Negli europei under 21 un giorno di squalifica per Balotelli. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spagna e Alessandra Tedesco. Coordinata da Maria Piera Cece e Dario Ceccarelli, con in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR è alle 15 con tutte le novità naturalmente sui risultati di ballottaggi e referendum. Vi ricordiamo anche gli speciali delle 18 e delle 21. GR Extra Large torna domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.